Le eleganti scarpe gialle di Blazes Boylan scricchiolarono sul pavimento del bar, come già detto, tintinnio davanti ai monumenti di Sir John Gray, Orazio Monomano Nelson, il reverendo padre Theobald Mathew, scarrozzava, come già detto proprio ora, al trotto, in pieno calore, caldo seduto. Cloche! Sonnella! Cloche! Sonnella! Più lenta, la giumenta risalì la collina dalla parte della rotonda, Rutland Square. Troppo lenta per Boylan, Blazes Boylan, impazienza boilante, trotterellava la giumenta. Un rintocco ritardato degli accordi di Cowley si chiuse, smorì nell'aria che se n'era arricchita. E Richie Goulding beveva il suo Power e Leopold Bloom il suo sidro beveva. Lidwell la sua Guinness. Il secondo signore disse che avrebbe usufruito di altri due boccali se non le spiaceva. Miss Kennedy smorfiò, biservendo, labbra coralline, al primo, al secondo. Non le spiaceva. 7 giorni in prigione, disse Ben Dollard, a pane e acqua. E poi, caro Simon, canteresti come un tordo. Lionello Simon, cantante, rise. Padre Bob Cowley suonò. Mina Kennedy servì. Il secondo signore pagò. Tom Kernan entrò pavoneggiandosi. Lydia, ammirata, ammirava. Ma Bloom cantava senza voce, ammirando. Ricci, ammirando, decantava la splendida voce di quell'uomo. Si ricordava d'una sera molti anni fa, mai scordare quella sera. Sim cantò Fama e Onor, fu da Ned Lambert. Buon Dio, non aveva mai sentito in vita sua una nota come quella, no, mai. Allora infido è meglio separarsi. Così limpida, per Dio, non l'aveva mai sentita, poiché amore non dura. Una voce sonante, non dura. Chieda a Lambert e anche lui glielo dirà. Golding, rossore tremulo sul suo pallido, raccontava a Mr. Bloom, viso della sera, che Sim in casa di Dedalus, Ned Lambert, cantò Fama e Onor. Egli, Mr. Bloom, ascoltava mentre egli, Richie Golding, raccontava a lui, Mr. Bloom, della sera in cui egli, Richie, sentì lui, Sim Dedalus, cantare Fama e Onor nella sua casa, sua di Ned Lambert. Cognati, parenti, non ci parliamo mai quando ci si incontra. Disaccordo, credo. Lo tratta con disprezzo, vedi? E lui ad ammirarlo ancor di più. La sera che Sim cantò. La voce umana. Due cordicelle di seta. Meravigliosa. Più d'ogni altra. Quella voce era una lamentazione. Più calma ora. Nel silenzio prima senti, poi odi. Vibrazioni. Ora aria silenziosa. Bloom disserrò le mani incrociate e con dita allentate pizzicò l'esile corda elastica. Tirò e pizzicò. Ronzò, vibrò. Mentre Golding parlava dell'emissione di voce di Barclough, mentre Tom Kernan, risalendo all'indietro in una specie di inquadratura retrospettiva, parlava a padre Cowley, in ascolto, che suonava un preludio organistico che annuiva nel suonare, mentre Big Ben Dollard parlava con Simon Dedalus, che accendeva la pipa, che annuiva nel fumare, che fumava. Tu sparisti. Tutte le canzoni su quel tema. Ancor più Bloom tendeva quella corda. Crudele sembra. Lasciare che la gente s'affezioni, adescarli, poi separarli a forza. Morte. Explos. Mazzata in testa. Fuori dai piedi. Vita umana. Dignam. Ah, la coda di quel sorcio che si dimenava. 5 scellini ho dato. Corpus paradisum, cornacchia mangiamorti, pancia come quella di un cucciolo avvelenato. Partito. Cantano. Dimenticato. Anch'io. E un giorno lei con... La lascerà. Se ne stancherà. Allora soffrirà, frignerà, occhioni spagnoleschi spalancati sul nulla. Le sue abbondanti, ondanti, ondanti, abbondanti chiome non pettina. Te. Però troppa felicità viene a noia. Tese di più, ancora di più. Non sei felice. Tac! Si spezzò. Tintinnio in Dorset Street. Miss Deuce ritirò il braccio di raso rimbrottante compiaciuta. Non si prenda certe libertà, disse, finché non ci conosciamo meglio. George Lidwell le diceva che davvero, che l'assicurava, ma lei non ci credeva. Il primo signore assicurò a Mina che era così. Lei gli chiese se era così e il secondo boccale le disse di sì, che era così. Miss Deuce, Miss Lydia non credeva. Miss Kennedy, Mina, non credeva. George Lidwell, no. Miss Dew, no. Il primo, Sig Colbock. Credere, no, no, no, Miss Ken, Lid Lydia Well, il Bock. Meglio scriverla qui. Le penne dell'ufficio postale masticate e storte. Il calvo Pat a un cenno s'appressò. Penna e inchiostro, se ne andò. Sottomano se ne andò. Tampone per asciugare. Udì Pat il sordo. Sì, Mr. Bloom disse, tormentando il fine elastico attorto. Proprio così. Bastano poche righe. Il mio regalo. Tutta questa musica italiana piena di fioritura, eh. Chi l'ha scritta? A sapere il nome si capisce meglio. Tirar fuori carta, busta, noncurantemente. Così caratteristica. Il più bel numero di tutta l'opera, disse Goulding. Sì, disse Bloom. Non è che numeri. Ecco cos'è tutta la musica, pensarci bene. 2 moltiplicato per 2, diviso per un mezzo, fa 2 volte 1. Vibrazioni. Quelle sono accordi. 1 più 2 più 6 fa 7. Fai quel che ti pare coi giochi di prestigio delle cifre. Si scopre sempre che questo è uguale a quello. Tutto è calibrato, come quel tale che calibra. Il camino del crematorio del cimitero. Non si accorge che sono in lutto. Incallito, non pensa che al suo stomaco. Musi matematica. E tu credi di sentire le voci eteree. Ma supponiamo che ti dica qualcosa come... Marta, 7 volte 9 meno x fa 35.000. Sgonfierebbe tutto. È per via dei suoni, eh. Per esempio, lui ora sta suonando, improvvisando. Potrebbe essere qualsiasi cosa finché non si sentono le parole. Bisogna aprire bene le orecchie, tenderle. Comincia tutto bene, poi si sentono accordi un po' fuori squadra, ci si sente un po' sperduti. Dentro e fuori da sacchi, sopra botti, attraverso fili spinati, corsa ostacoli. Il tempo fa il motivo, tutta questione dell'umore. Però sempre piacevole sentire. Meno le scale ascendenti e discendenti, ragazzine che imparano. Ah, due insieme vicine nella casa accanto. Dovrebbero inventare dei pianoforti muti per questo. Milli, niente gusto. Strano, perché noi due, direi. Blumenlied, che comprai per lei, per il nome. Lo suonava lentamente. Una ragazza, la sera che tornai a casa. La ragazza, porta delle scuderie vicino a Cecilia Street. Il calvo, sordo Pat, portò piatto sottomano inchiostro. Pat dispose con inchiostro, penna, piatto sottomano. Pat asportò piatto, scodella, coltello, forchetta. Pat andò. Era la lingua ideale, diceva ben Mr. Dedalus. Li aveva sentiti da ragazzo a Ringabella, Crosshaven, Ringabella, cantare le loro barcarole. Il porto di Queenstown pieno di navi italiane. A passeggio, sai, Ben, a lume di luna, con quei cappelli da sacripante, voci fuse insieme. Dio, che musica! Ben sentita da ragazzo. Cross ringabella, heaven, lun carole. Levata di bocca la pipa acre, si mise la mano a schermo delle labbra che tubarono un lunare richiamo notturno, limpido da presso, un richiamo da lungi in risposta. Lungo il margine del Freeman arrotolato di Bloom, l'altro occhio vagava cercando, ma dove l'ho visto? Callan, Coleman, Dignam Patrick. Hey yo, Fawcett! Ah, stavo proprio guardando. Spero non stia guardando. Furbo come una donnola. Tenne spiegato il Freeman. Non può vedere ora. Ricordarsi di scrivere la E alla greca. Bloom intinse. Bloom morm, caro signore. Il caro Harry scrisse: cara Amedi, avuta la lettera e il fiore. Porca miseria, dove ho messo? In qualche tas è assolut in pos. Sottolineare in pos. Scrivere oggi. Seccatura. Bloom seccato, tamburellò piano con dita da ci sto pensando. Sopra il sottomano piatto portato da Pat. Avanti. Capisci cosa voglio dire? Accetta il mio umile reg a clou. Chiedile di non risp. Aspetta. 5 per dig, 2 circa qui, un penny per i gabbiani. Elia vie. 7 da David Byrne. Fa quasi 8. Diciamo mezza corona. Mio umile reg, vag post 2-6. Scrivimi una lunga. Disprezzi? Tintinnio. Le prudon le. Tanto eccitata. Perché mi chiami ragazza? E tu non lo sei? Oh, Mariuccia ha perduto la cordicella. Ciao per ora. Sì, ti racconterò. Voglio, per tenerle su. Chiamami in quell'altro. Altro mondo, ha scritto. Perdo la pazza per tenerle su. Mi devi credere, credere il Bock. Vero. Sciocchezza scrivere. I mariti non. È conseguenza del matrimonio. Le mogli. Perché io sono lontano da. Supponiamo. Ma come? Lei deve mantenersi giovane, se scoprisse. Biglietto nel mio miglior cap. No, non dir tutto. Dolore inutile. Occhio non vede. Donna. Tutto fa brodo. Una vettura di piazza, numero 324. Conducente Barton James. Numero 1 di Harmony Avenue. Donnybrook, nella quale stava un cliente, un signorino, elegantemente abbigliato in un abito di sarge azzurro indaco, tagliato da George Robert Mesias, sarto e tagliatore al numero 5 della Riva Eden e con in testa una paglietta molto distinta, acquistata da John Plasto, cappellaio al numero 1 di Great Brunswick Street. Eh? È questa la carrozza che tintinnava e traballava. Davanti alla norcineria Dlugacz, con le lustre filze di Hagendat, trottava una giumenta dalle balde terga. Risponde a un'inserzione? Chiesero a Bloom gli occhi acuti di Ricci. Sì, disse Mr. Bloom, rappresentante di commercio in città. Mi sa che non c'è niente da fare. Bloom morm, le migliori referenze. Ma Harry scriveva, mi ecciterà. Sai come? In fretta, Harry. E alla greca. Meglio aggiungere un po' scritto. Cosa sta suonando ora? Improvviso un intermezzo. PS, taratata. Come mi pun? Mi punirai. Gonna sbilenca che ondeggiava, colpo su. Dimmi, voglio sapere. Oh, si capisce, se no non chiederei neppure. La la ri. Finisce languendo in minore. Perché minore triste? Firmare H. Punto. Gli piace una coda triste alla fine. PPS. La la ri. Mi sento così triste oggi. La ri. Così solo. La. Asciugò alla svelta sul tampone di Pat. Bus. Indir, copiarlo dal giornale, mormorava, Società Anonima Callan, Coleman & Co. Harry scriveva: Miss Martha Clifford, fermo posta, ufficio postale, Dolphin's Barn Lane, Dublino. Asciuga nello stesso punto, perché non si legga. Ecco, bene. Idea da racconto a premio. Qualcosa che il poliziotto ha letto in un tampone. Pagamento in ragione di una guinea a colon. Machan pensa spesso alla strega ridente. Povera Mrs. Purefoy. S.U. Su. Troppo poetico quello sulla Triste. È stata la musica. C'è una malia nella musica, ha detto Shakespeare. Citazioni per tutti i giorni dell'anno. Essere o non essere. Saggezza pronta consegna. Nel roseto di Gerard in Fetter Lane egli passeggia, castano occhi grigi. Una vita è tutto. Un corpo. Fai. Ma fai. Fatto comunque. Vaglia. Francobollo, ufficio postale un po' più giù. Ora quattro passi, basta. Da Barney e Kira hanno promesso di vederli. Non mi va quel lavoro. Casa in lutto. Camminare. Pat! Non sente, sordo come una campana. Ora la vettura deve essere quasi arrivata. Parlare, parlare. Pat! Niente. Sistema i tovaglioli. Ne deve fare di chilometri in una giornata. Dipingergli un altro viso dietro e sarebbero due. Se cantassero ancora un po', mi distrae la mente. Il calvo Pat, che è tribolato, disponeva tovaglioli a mitra. Pat è un cameriere duro d'orecchio. Pat è un attendente in attesa, attento mentre attendi. Attento mentre attendi. È un attendente in ver. Attento mentre attendi. Mentre attendi, se tu attendi mentre attendi, attenderai. Attende mentre attendi. Deuce ora. Deuce Lidia. Bronzo e rosa. Se l'è passata magnificamente, proprio magnificamente. E guardi che bella conchiglia ha portato. Dall'altro capo del bar a lui ella portò leggera lo spinoso e ritorto corno marino, sicché lui, George Lidwell, procuratore, potesse udire. Ascolti, gli ingiunse. Sotto le parole calde di Gin di Tom Kernan, l'accompagnatore intesseva musica lenta. È autentica questa. Come Walter Bapti, perse la voce. Così, signor mio, il marito lo prese alla gola. Farabutto, disse, non canterai più canzoni d'amore. E così fu, in fede mia, signor Tom. Bob Cowley tesseva. I tenori hanno donna. Coley si abbandonò all'indietro. Ah, ora sentiva, lei tenendoglielo all'orecchio. Senta, sentì, meraviglioso. Ella lo accostò al proprio e attraverso la luce filtrata, pallido oro a contrasto, scorse. Per sentire. Tic! Bloom, attraverso la porta del bar, vide una conchiglia accostata alle loro orecchie. Egli udì più debolmente quel che loro udivano, ognun solo per sé. Poi ciascuna per l'altro, udendo lo scroscio delle onde, sonoro, bombito, silenzioso. Bronzo accanto a oro stanco, presso, lungi, ascoltavano. Anche l'orecchio di lei è una conchiglia, il lobo che fa capolino lì. Stata al mare, belle ragazze in riva al mare. Pelle abbronzata e irritata. Doveva mettersi della crema prima di farla abbronzare bene. Pane abbrustolito e imburrato. Oh, non devo scordarmi di quella lozione. Bollicina di febbre vicino alla bocca. La testa te la fan proprio. Capelli arrotolati sopra. Conchiglia con alghe. Perché si nascondono le orecchie con quei capelli algosi? E le turche la bocca, perché? I suoi occhi fuori del lenzuolo. Uno yashmak. Trovare il modo di entrarci. Una caverna. Vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori. Il mare credono di sentire, che canta. Un bombito. È il sangue. Flusso nelle orecchie qualche volta. Beh, è un mare. Isole corpuscoli. Meraviglioso davvero. Così distinto. Ancora. George Lidwell ne tratteneva il mormorio, ascoltando. Poi la scostò, pian piano. «Che cosa dicono le onde furiose?» le chiese, sorrise. Incantevole, ma sorridendo e non rispondendo, Lydia a Lidwell sorrise. «Tic!»